Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il maggio del 1821. Adieu, Napoleone muore in esilio per un tumore, l'uomo che ha sconvolto l'Europa. Le ultime parole di Bonaparte dedicate alla Francia, all'ex moglie, a quello che considerava ancora il suo esercito. Il mondo riflette e si divide sulla sua eredità, il suo ruolo di innovatore mette ancora paura. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Napoleone Bonaparte era malato da tempo, ma non lo sapevano in molti. Solo coloro che hanno passato gli ultimi anni della vita dell'imperatore in sua compagnia nella sperduta isola di Sant'Elena. Già dalla fine di aprile non riusciva più ad alzarsi dal letto, scosso da terribili dolori, dovuti probabilmente ad un tumore allo stomaco. Le sue ultime parole sono state per tutti i suoi grandi amori. All'inizio del delirio sembra che abbia sussurrato il nome Josephine. Alla fine France, armée, infine tête de l'armée, testa dell'armata. Dunque la donna alla quale non ha mai smesso di pensare, il paese che ha dominato, l'esercito. Bonaparte non lascia macerie, ma un'Europa divisa sulla sua eredità. La morte di un uomo come Napoleone Bonaparte non può che provocare silenzio. Un silenzio carico di considerazione, ma anche diviso nel giudizio. Chi si riconosce nella restaurazione, i sovrani tornati sul trono e i loro uomini di fiducia, a partire dal geloso custode della vecchia Europa, il cancelliere austriaco Clemens von Metternich, guardano all'epoca napoleonica perché, lo si voglia o no, di epoca si è trattato, con un misto di paura e disgusto. La prima perché mentre muore Bonaparte, l'ultimo simbolo della rivoluzione francese dei suoi perniciosi effetti, le ribellioni ancora scaldano gli animi e costringono alla repressione. Il secondo per le idee che pur da sovrano assoluto Napoleone ha sparso a piene mani per l'Europa, non fosse altro che per il suo codice tremendamente laico e liberale. Quel che resta dei giacobini, i carbonari, ma anche una consistente fetta del popolo che per breve tempo ha sentito il soffio della libertà, ricorderà il ventennio napoleonico con un misto di rabbia e nostalgia. L'insofferenza verso alcune costrizioni religiose, il dispotismo, ma anche l'apertura alla borghesia sono state pietre miliari di questo tempo. E storie come quelle di Gioacchino Murat sono esemplari di come abbia funzionato il vecchio continente sotto la guida dell'ex generale Corso. Una mobilità sociale mai conosciuta prima ha fatto sì che il figlio di un albergatore diventasse il re di Napoli. L'Italia, per conto suo, ha vissuto embrioni di unificazione, se non amministrativa, certamente culturale, sotto un generale nato francese quasi per sbaglio, il 15 agosto del 1769, quando appena in maggio si era completata la conquista dell'isola da parte di Parigi. La sua vita è durata 52 anni e si è conclusa su un'altra isola, quella di Sant'Elena, sperduto possedimento britannico nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Non si sa se le cariche che si è dato in Italia, Presidente della Repubblica prima e Re d'Italia poi, verranno ricoperte da qualche altro in futuro. Di certo lascia un segno fondamentale nella storia militare e politica della penisola e dell'Europa tutta. E lascia, a quel che si è saputo, un memoriale di prossima pubblicazione, con un popolo ansioso di ascoltare i suoi giudizi sul tempo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook, anzi fatelo e lasciateci un commento. Per le missive elettroniche l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.